l'avvocato senatore Kessler e a nome dell'Istituto Storico Italo-Germanico. Ecco, questa appunto è, diciamo, forse la prima manifestazione che non è gestita direttamente e formalmente dall'Istituto Storico Italo-Germanico, ma gestita da questa nuova creatura, neonato, Verein. E quindi nel saluto di benvenuto io voglio solo aggiungere questo, ecco, che io e noi tutti speriamo molto in questo Verein, speriamo che questa figura associativa che sta alla base appunto di questa riunione di storici italiani e tedeschi che decidono appunto di discutere periodicamente insieme i problemi dello sviluppo della ricerca, ecco, noi speriamo che questa associazione appunto goda di vita propria e piena, in modo da essere essa stessa elemento di stimolo, elemento di novità, elemento di sviluppo per l'attività dell'Istituto Storico Italo-Germanico, che ormai ha 17 anni dalla fondazione e avendo creato alcune strutture di base sia dal punto di vista della biblioteca sia dal punto di vista dell'attività seminariale eccetera, penso appunto abbia in qualche modo bisogno di una seconda vita, e non dico che questa seconda vita noi ce l'aspettiamo tutto dal Verein, ecco, ma ci aspettiamo molto dal Verein, cioè ci aspettiamo molto dalla nascita dal basso, ecco, nel senso dagli associati tutti, ecco, di proposte, di discussione, di sviluppo della nostra attività. Ecco, quindi queste sono le brevissime parole di saluto. Prima di dare la parola al professor Weiss, che come presidente del Verein aprirà i lavori, vorrei invitare il presidente della regione, che ringrazio, che abbiamo qui con noi, il dottor Andreolli, presidente della regione Trentino Alto Adige, a portare un saluto. Gentili signore e signore, sono qui nella mia duplice veste di presidente della regione Trentino-Alto Adige, ma anche in rappresentanza del presidente del consiglio di amministrazione dell'Istituto Trentino di Cultura, che è la matrice di questa nostra istituzione. Sono lieto di essere qui per portare il cordiale mio saluto personale del governo regionale e del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Trentino di Cultura, ma la mia presenza vuole essere anche la sottolineatura e veramente un'espressione di gratitudine per questa nostra istituzione che ormai, come giustamente diceva il direttore, professor Prodi, dopo 17 anni di vita ha avuto la forza, l'entusiasmo, la capacità di generare questa nuova associazione tra gli storici italiani e tedeschi. Quindi un secondo traguardo ambizioso che rappresenta un grosso fatto di politica culturale dal nostro punto di vista per la comunità trentina e voglio osare dire anche altoatesina. Lo oso dire perché sono convinto che anche la comunità sudtirolese di Bolzano guarda con crescente interesse a questa nostra associazione, si stanno diradando i dubbi e le paure, e so di parlare degli storici e quindi a delle persone che professionalmente conoscono i risvolti politico-istituzionali di questa vicenda. Io oggi, fra poco andrò in Consiglio regionale a chiedere l'approvazione del bilancio del 1990 e in quell'occasione abbiamo anche lanciato un messaggio politico alla comunità regionale, quindi anche sul tirolese di lingua tedesca. Noi vorremmo che da questa terra, nella comune convinzione di poter lavorare insieme in pace, potesse nascere non solo e alimentarsi e propagarsi lo spirito della convivenza, ma dalla convivenza sociale poter far crescere anche istituzioni culturali che alimentano, sostengono e rafforzano dal punto di vista politico questo spirito nuovo. Trento e l'Istituto Trentino di Cultura, con tutti i suoi istituti, in questo in particolare l'Istituto Storico Italo-Germanico, si è posto nell'obiettivo di dare, buongiorno al nostro Presidente, di dare questa fondazione storico e giuridica a un confronto aperto tra le due culture. Noi ne siamo molto orgogliosi, per questo vi ringraziamo di aver accettato il nostro invito, faccio molti auguri per questa prima giornata, io auspico che questo primo passo possa continuare con forza, con convinzione e soprattutto con grande frutto per la conoscenza reciproca della storia di questi due popoli che oggi guardano all'Europa con uno spirito fortunatamente diverso e credo che voi storici possiate, anche immergendovi nell'attualità, dare un contributo perché questi popoli riescono effettivamente a costruire insieme un'Europa diversa e noi ci auguriamo di più. Un complimento vivissimo ai curatori di oggi, al Presidente di turno e molti auguri per questa giornata. La parola al Professor Weiss, Presidente del nostro FERAI. Signor Presidente, signore e signori, cari colleghi, a nome del Consiglio Direttivo dell'Associazione per la Ricerca Storica Italo-Tedesca, ho l'onore di porgervi il benvenuto al primo seminario organizzato qui a Trento dalla nostra associazione. Ringrazio voi che siete intervenuti anche da molto lontano, ringrazio i relatori e ringrazio l'Istituto Storico Italo-Germanico che ha sopportato il peso maggiore della preparazione di questo incontro, soprattutto il professore Schiera e la signora Karen Krieg. Ringrazio gli enti che hanno contribuito con il loro finanziamento a rendere possibile l'iniziativa. In primo luogo il Centro Nazionale delle Ricerche e la Deutsche Forschungsgemeinschaft, che in tal modo hanno stabilito anche una importante collaborazione fra loro. Poi la Regione Trento-Alto Adige, qui rappresentata dal suo presidente, dottore Andreoli, e infine l'Istituto Trentino di Cultura, che così gentilmente ci ospita. È difficile sopravvalutare i meriti dell'Istituto Storico Trentino per quanto riguarda la collaborazione fra storici tedeschi ed italiani. La maggior parte degli storici tedeschi che io conosco ha già avuto il piacere di provare l'ospitalità di questo istituto e l'occasione di apprezzare la qualità e l'importanza dei seminari da esso organizzati e delle relative pubblicazioni. Dell'esistenza di questa istituzione scientifica che ha consentito ormai da anni la proficua collaborazione di studiosi provenienti da almeno 3 nazioni, Italia, Austria e Germania. Dobbiamo essere particolarmente grati alla preveggenza politica della provincia di Trento e in particolare del suo presidente di allora, ora presidente dell'Istituto Trentino di Cultura, senatore Bruno Kessler, che hanno investito negli anni molte energie in questa direzione. Ma non si può tralasciare anche il grande merito di chi ha ideato e guidato in tutti questi anni l'Istituto, il professore Paolo Prodi e, attraverso lui, anche il suo maestro, professor Hubert Jedin, che è stato il primo presidente dell'Istituto. Per non prendere troppo tempo ai nostri lavori, che sono già molto stretti, mi limito ad augurarmi che, anche attraverso questa iniziativa, la nostra associazione possa crescere sempre, sempre più e contribuire ulteriormente alla amicizia e alla collaborazione scientifica fra i nostri diversi mondi culturali, accompagnando un processo di unificazione europea che ci viene ormai indicato da ogni parte. Grazie. La parola adesso il professor Schiere, che è Geschäftsführer del Verein e... Insomma, no? Nel senso che, per esempio, è leggermente modificato il programma di questa mattina per ragioni logiche, innanzitutto. Cioè, il primo relatore non sarà più il professor Haferkamp, ma il professor Capitani, il quale si è assunto l'onere di svolgere una relazione di ampio respiro che, nella nostra intenzione, dovrebbe fungere da vera e propria relazione introduttiva a tutto il convegno. Quindi la relazione del professor Capitani sarà anche più lunga di quello che è previsto sul nostro programma, ma io sono sicuro che poi riguadagneremo il tempo perduto. Io personalmente già fin d'ora mi dichiaro disponibile a accorciare a 5 minuti il mio intervento di questa sera. In ogni caso, resta inteso che, come sempre, lo svolgimento dei nostri lavori sarà uno svolgimento, direi, quasi familiare, fra amici. Ecco, non ci sono, come non ci sono mai a Trento, troppe formalità, e quindi noi siamo ancora abbastanza italiani da poter sopportare qualche elasticità nel nostro programma e nelle ore che sono state lì segnate. Questo significa che, se non riusciamo a finire i lavori scientifici entro la giornata di oggi, possiamo benissimo rimandare, rinviare qualche cosa a domani mattina, perché tutto sommato abbiamo tempo sufficiente. Anche se domani mattina dobbiamo dedicare molta attenzione anche alla nostra assemblea. Purtroppo il cambiamento di data che si è verificato all'ultimo momento ha portato una piccola complicazione, perché domani pomeriggio questa sala non è più disponibile. Ecco, questa è la ragione per cui abbiamo dovuto concentrare tutto tra oggi e domani mattina. Vi prego di scusare, ma sono sicuro che tutto andrà per il meglio e soprattutto auspico che ci sia anche un po' di tempo per discutere. Ecco. Dal punto di vista organizzativo, oggi a mezzogiorno, all'una, insomma, avremo il nostro Mittagessen alla mensa universitaria, che è qui vicino, in quel palazzo giallo che è lì. E, ecco, chi non avesse ancora avuto i buoni, questi bigliettini che servono per avere il pranzo e pregato di chiederli durante una pausa alla signora Creek, la quale come sempre è a disposizione di tutti per qualsiasi esigenza, bisogno di ogni genere. Molte grazie e buon lavoro. Grazie. Allora cominciamo i lavori veri e propri, professor Weiss. Il professor Capitani. Il professor Weiss al centro.